allora mi trovo qui a Baghdad all'interno dell'area dell'aeroporto, invitato da alcuni amici ex dipendenti, dove loro hanno le case, ex dipendenti dell'aeroporto, che sono stati tutti licenziati. È un casuale, perché altrimenti è assolutamente off limits sia per gli stranieri che per gli iracheni entrare da queste parti. Da una parte c'è il muraglione che divide dalla residenza di Saddam Hussein, dove forse ci dovrebbero essere ancora prigionieri del governo, dell'ex governo di Saddam, e dall'altra parte, forse sentite qui l'aereo, e dall'altra parte c'è l'aeroporto. Ecco, io mi trovo al centro, questo per descrivervi un po' le condizioni in cui mi trovo. In questi giorni abbiamo portato a termine la nostra missione, che era quella, è stata impossibile purtroppo a Karbala, perché si spara ancora e quindi non ancora la mezzaluna riesce a creare un passaggio così privilegiato, umanitario, per la città sia di Karbala che di Najaf, impossibile almeno per adesso. Per cui una parte dei nostri aiuti andranno a queste città e a questi ospedali appena si aprirà un corridoio, mentre invece un'altra piccola parte è andata, l'abbiamo portata direttamente noi con le macchine della mezzaluna, l'abbiamo portato a Fallujah. Saprete benissimo che a Fallujah gli americani non possono entrare, questi sono gli accordi, tutto è gestito dalla polizia irachena, dai cittadini di Fallujah. E abbiamo consegnato questo materiale alla mezzaluna e poi abbiamo fatto visita all'ospedale centrale di Fallujah, che dopo averlo attraversato completamente lungo tutto questo corso molto lungo che taglia la città in due, si attraversa un piccolo ponte in ferro e si attraversa ovviamente l'Eufrate, e di là dall'Eufrate c'è l'ospedale centrale di Fallujah, dove noi siamo stati, abbiamo portato i nostri peluche ai bambini ricoverati insieme al direttore dell'ospedale, le abbiamo consegnate ai bambini, alle mamme che stavano lì, e questo nostro sistema di portare comunque sempre con noi i peluche fanno parte un po' di una nostra logica molto umile, se volete, molto modesta, molto povera, però non immaginate quanto noi questi peluche li raccogliamo nelle scuole. Ogni bambino porta un peluche, noi ne abbiamo, i nostri bambini spesso hanno 5, 6, 7 peluche, e non immaginate, io sono convinto di questo, che spesso un peluche, un giocattolo di questo tipo, a volte possa essere anche perfino più utile quasi di un medicinale, lo dico con eccessività, ma perché ci si renda conto di quanto possa essere utile un piccolo dono così umile a dei bambini che non hanno assolutamente niente in questo momento. Abbiamo saputo siamo stati accolti benissimo, meravigliosamente, ci hanno fatto sentire l'amicizia verso noi e verso il popolo italiano, molto meno, se non assolutamente meno, verso il governo italiano. Ci sono stati molto vicini, ci hanno invitato poi a pranzare lì a Fallujah, quindi ci siamo fermati a pranzo, dove vi garantisco si mangia il miglior kebab di tutta l'Iraq, è veramente buono il kebab di Fallujah. Lì abbiamo saputo, abbiamo interrogato, abbiamo fatto domande, i morti sarebbero stati intorno a un migliaio, i feriti oltre 2000, 7 moschee sono state colpite, e voi vi rendete conto di quanto sia umiliante ma anche vigliacco colpire in questo modo le moschee. È paragonabile al fatto di quando i bambini e le donne in Italia durante i bombardamenti si ritiravano, trovavano rifugio nelle chiese, è la stessa cosa, identica e precisa, loro l'hanno fatto nelle moschee e spesso dentro le moschee vi hanno trovato la morte. La vita era tranquilla, sufficientemente tranquilla, abbiamo visto molti colpi di mitragliatrici sparate contro i palazzi di Fallujah, molte case sono state colpite e ripeto, tantissime, 7 le moschee colpite da missili o da razzi o da cannonate dei carri armati. Al, All'andata verso Fallujah avevo dimenticato una delle cose più importanti, si passa poche 100 metri, forse anche meno, sul lato destro dell'autostrada al famoso famigerato carcere di Abu Ghraib. C'erano varie centinaia di persone, molte macchine, evidentemente forse in attesa dei loro congiunti, nell'attesa che uscisse qualcuno dalle carceri di queste carceri. L'abbiamo ripassato nel ritorno, abbiamo anche qualche immagine così prese molto nascostamente dalla macchina di questo carcere, così come abbiamo le immagini riprese all'interno. Noi ci troviamo qui, come molti sapranno, la nostra associazione è piccolissima, modesta, molto umile, l'associazione Aiutiamo le Vivere Passage to the South, operiamo qui dal 1998 e ovviamente essendo collaboratore di Report Associati, per Report Associati e per Amisnet, io mi trovo qui a fare anche questo commento che faccio con estremo piacere e anche grande soddisfazione. Quello che posso aggiungere è questo: noi nell'ultima lettera fatta a Report Associati sulla descrizione di Fallujah facciamo appello alle organizzazioni che sono andate via da Baghdad di ritornarvici, perché siamo amici di questo popolo e loro ci considerano amici. Capisco tutti i rischi, ma forse probabilmente bisogna portare un qualche cosa, un segnale che ci distingua. Diversamente io credo che siamo al crollo, perché passerebbe all'interno e davanti al popolo iracheno e nel mondo e nel nostro paese in Italia l'immagine che il volontariato moderno, questo nuovo volontariato inventato, sia fatto solo con le armi, con i carri armati e con i soldati. Beh, questo è troppo umiliante anche per noi, non possiamo accettarlo. Io spero che le organizzazioni ascoltino, ci si ascolti, ci si senta, si parli e poi si decida anche di rientrare in questo paese dove c'è molto bisogno. Per Report Associati e Amisnet, Tuzio Teiulis da Baghdad.